giovedì 20 giugno e i quotidiani, a parte il Sole 24 Ore che apre su Fed stop agli stimoli entro il 2014, tutti, quasi tutti, aprono sulla bocciatura respinto il ricorso di Berlusconi dalla Corte Costituzionale. No della Consulta a Berlusconi per il Corriere. Repubblica, la Consulta boccia Berlusconi. Consulta no Berlusconi è il Messaggero. Il Giornale a un passo dalla fine. L'Unità, Berlusconi era solo una scusa. La Stampa, Consulta stop a Berlusconi. Il Fatto, la Corte sbugiarda B, lui abbaia ma non dorme. Il Secolo, Berlusconi non si salva. Avvenire, colpo a Berlusconi ma non al governo. Il Manifesto, respinto. Per trovare un'altra apertura si va su Libero, che torna sulla vicenda idem IMU, il ministro Josefa Idem, la ministra è abusiva. Questo è il titolo di Libero, che inizia una campagna: dimettiti, caro ministro. Allora, però voglio partire da quelle notizie che, come dire, mettono insieme politica e sesso. E ce ne sono. Questa è la classica notizia che riconcilia con la politica tutti gli ascoltatori, tutti i cittadini che magari in questi anni si sono un po' allontanati, no, dalla passione politica. Coi soldi, i fondi per i disoccupati, questa è un'inchiesta che riguarda la Sicilia, erano destinati ai disoccupati, sono finiti in un giro di politici e squillo. Questa è l'accusa. Sistema inquietante con tangenti squillo e Sara Tommasi, titolo al Fatto Quotidiano pagina 4, ma tutti i giornali dedicano una pagina a questo. Escort e Rolex coi soldi dell'Unione Europea, questo è il titolo della Stampa di Riccardo Arena pagina 18. In escort i soldi dei disoccupati, ve l'ho detto, quelle cose che proprio ti riconciliano con la politica quando uno legge queste cose. Questo era il titolo del Secolo XIX, Franco Nicastro, che apre così: ora si capisce perché con 15 milioni di euro stanziati per avviare all'apprendistato 1500 disoccupati in Sicilia solo 18 hanno ottenuto un contratto, si capisce pure perché la formazione sia diventata il grande bubbone che in Sicilia brucia risorse e speranze. Quei soldi non servivano a creare occasioni di sviluppo, venivano impiegati per alimentare la regione un perverso, originale sistema di sprechi, corruzioni, con politici e burocrati che incassavano mazzette sotto tante forme: viaggi con famiglie, prestazioni di escort, orologi d'oro, biglietti omaggio per le partite del Palermo. Come dire, spunta anche Sara Tommasi, perché racconta il Fatto Quotidiano, pagina 4, con Giuseppe Lobianco e Sandra Rizza. A un certo punto, il 30 luglio 2010, viene fatto un bonifico a Sara Tommasi di 3.000 euro e una delle persone che è stata arrestata ieri dice: qualche giorno dopo avermi consegnato un foglio di carta con l'indicazione dell'IBAN di Sara Tommasi, Giacchetto, questa persona arrestata, Giacchetto mi faceva avere una bozza del contratto di cessione di diritti utilizzo immagini della Tommasi, ma non avendo mai ricevuto il contratto chiesi notizie e lui mi fece capire che si trattava di un pagamento per prestazioni di altra natura. Filippo Facci in prima pagina su Libero: fondi pubblici in Sicilia, i fondi per i disoccupati finivano in puttane. Detta così è un po' cruda, ma è come la racconteremmo tra di noi. I dettagli li trovate poi all'interno. In pratica c'era un comitato di politici e funzionari che intascava i fondi comunitari per disoccupati, in parte li utilizzava per regalare cene ed escort. Un bello schifo, ma oltre a questo che dire? Che commento fare? Ce ne starebbe uno etno-qualunquista, genere certe cose succedono in Sicilia e via così, oppure un commento antipolitico, anche perché tra gli arrestati figura gente PDL, PD, UDC, MPA, Grande Sud, tutti, insomma, tuttavia è coinvolta anche la mitica società civile, dunque limitiamoci a auspicare una soluzione all'inglese. Le categorie coinvolte, vediamo, sono essenzialmente tre: i politici, le escort e i disoccupati. I politici fottevano entrambi, ma pagavano solo le prime, coi soldi per i secondi. Le escort non facevano che il loro lavoro, materia ambita dai disoccupati. Ergo la soluzione è semplice: una volta usciti di galera i politici seguiteranno a pagare le escort con fondi propri, ma a consumo dei disoccupati, questo sinché quest'ultimi non avranno trovato un lavoro. Qualora il disoccupato fosse omosessuale, eventualità che nella Sicilia di Crocetta non scandalizzerebbe nessuno, il politico dovrà parimenti, diciamo così, pagare con fondo proprio, dopodiché il disoccupato diverrà dolorosamente lui. Questo Filippo Facci su Libero. E poi dalla Sicilia uno va a Firenze, dove sembra prendere corpo sempre più lo scandalo che anche qui racconta di escort, di pissi pissi, di gossip, di vociare, Repubblica in prima pagina con Concita De Gregorio, assessori, escort e copi segreti hard di Firenze. Non c'è chi non conosca uno che non conosce uno che gli ha detto che... Fra Borgo Allegri, via delle belle donne, non c'è chi non sappia di sicuro che anche la Maria Grazia, sì, quella del negozio di intimo, te l'avevo detto che l'altro giorno è entrata da Gucci e si è comprata 3 borse senza nemmeno chiedere quant'è? Me l'ha raccontato la commessa, che è un'amica di mia sorella, e non c'è uno che non sia sicurissimo che da Franchino, l'orologiaio bianco di capelli pettinato da paggio attempato, non sia passata anche la Mara, che è la segretaria del consigliere comunale tale. E certo che lui lo sapeva, e come se lo sapeva, hai voglia. Lo sapeva per esperienza diretta, diciamo, che a certe ore si chiudono le porte delle stanze in comune e a volte non si chiudono nemmeno, e non mi far dire altro che qui si va in galera. Insomma, inizia così il racconto di Concita De Gregorio su Repubblica, le escort, l'assessore, l'orologiaio, i segreti a luci rossi di Firenze. Non stupitevi, qui così fan tutti. C'è il racconto di una studentessa universitaria che dice: ma non stupitevi, lo sappiamo tutti, appena arrivi da matricola, se c'è una difficoltà a pagare l'affitto, ti servono i soldi per un viaggio, un modo è quello e si sa da chi andare a bussare. Poi una si regola, come crede. Una mia compagna di corso l'hanno interrogata per via di questa storia, mi ha detto: guarda Cristiana, io non sono una puttana e lo sai, l'avrò fatto 3 volte, e quello che mi ha fatto schifo non è stata quella mezz'ora, ma sentirli parlare al telefono dopo, con le mogli, gli amici. Ci credi? Ecco, protagonista Firenze, dove racconta anche il Fatto Quotidiano l'ex assessore, la escort rumena, quella di cui l'ex assessore di Renzi aveva detto: non sapevo che facesse quel lavoro, era una mia amica. Ora racconta Davide Vecchi, è pieno di SMS tra l'ex assessore e la rumena del tenore: amore mio, vita mia. E vabbè, è iniziato anche qui lo sputtanamento su, sui giornali con gli SMS. Come dire, concedetemela come battuta, quando ho letto sui giornali che Ilda Boccassini ha chiesto, è una dei 50 magistrati che ha chiesto di essere trasferita, di essere iscritta alla possibilità di essere trasferita al ruolo come procuratore capo di Firenze, perché va in pensione tra qualche mese il procuratore capo di Firenze, quindi anche lei ha fatto richiesta per essere trasferita lì, Ilda Boccassini, insomma, appena sente questo tipo di... no? Ha visto, ha letto i giornali, magari è una battuta, ovviamente si scherza, e... però Libero la mette: Renzi e le escort, ora Ilda punta la Toscana. Attenzione, cari fiorentini, forse arriva Ilda Boccassini, è lì. Ho capito anche che sono, che c'è una cosa che fa girare il mondo, come dicevo prima, pare non sia il denaro. E poi ci riprendiamo dopo la pubblicità e il meteo. Chissà oggi chi vince, tra l'altro, il premio per l'articolo più inutile che ho trovato sui giornali, il premio La Carta Costa. Allora, come detto, la maggior parte dei giornali apre sulla notizia giudiziario-politica del giorno, vale a dire il fatto che la Corte Costituzionale ha respinto un ricorso dei legali di Silvio Berlusconi. L'abbiamo detto varie volte, era la condanna in appello già a 4 anni con interdizione ai pubblici uffici, il processo Mediaset, pendeva una richiesta, un ricorso alla Corte Costituzionale perché in una delle udienze il Tribunale di Milano aveva negato il legittimo impedimento per Berlusconi che presiedeva un Consiglio dei Ministri. La Corte Costituzionale ha stabilito che quel calendario dell'udienza era stato fatto anche su richieste di Berlusconi, e quindi insomma quel Consiglio dei Ministri sarebbe stato convocato come una scusa all'ultimo momento per evitare appunto l'udienza. Questo è il senso di quello che è stato il pronunciamento della Corte. No al legittimo impedimento, titola il Sole 24 Ore a pagina 9 con Donatella Stasio, che racconta appunto tutta questa vicenda dal punto di vista della cronaca. C'è anche un resoconto di Barbara Fiammeri a fianco, il Cavaliere, la reazione: vogliono eliminarmi, ma nessuna ricaduta sul governo. E questa, diciamo, la notizia politica che era abbastanza attesa, cioè una reazione, sebbene di rabbia, contenuta da parte di Berlusconi. cavaliere che viene dato per furente nell'articolo di Barbara Fiammeri, un cavaliere che si aspettava non clemenza, ma la decisione e le motivazioni che l'accompagnavano vanno oltre le previsioni, ce l'ha con tutti, soprattutto col capo dello Stato che dice, Berlusconi ai suoi, anche stavolta non mi ha aiutato. Il riferimento è al precedente della sentenza sul lodo Alfano e al fatto che ci sono 5 giudici nominati da Napolitano. Se avessero votato come quelli nominati dal centrodestra avrebbero potuto ribaltare il verdetto. Berlusconi, insomma, per il Sole è convinto che il presidente non si è mosso, almeno non abbastanza. Questi alcuni dei virgolettati attribuiti a Berlusconi, che però reagisce appunto con la tenuta del governo, racconta anche Francesco Verderami nell'articolo di pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, tutti dall'ex premier, quel segnale di Alfano che apre una crepa. La linea è Letta non si tocca. Ieri lo ha confermato anche chi è andato a trovarlo, tra questi Letta. Ah, Gianni Letta, certo, sì, Gianni Letta, lo zio del premier Enrico Letta, che racconta Francesco Verderami, è andato a trovarlo. Era sincero, almeno così ha spiegato Gianni Letta, e durante la riunione a quanti non credevano fino in fondo alle parole di Berlusconi, invece Silvio crede davvero a questo governo, ci ha investito. Così dice Gianni Letta del governo Enrico Letta. Il cavaliere, insomma, assicura, racconta anche a pagina 3 del Corriere della Sera con Paola Di Caro, non è in discussione il sostegno del governo. Un cavaliere che reagisce, me lo aspettavo, anche per la stampa Ugo Magri, l'avevo previsto, ma ora nervi saldi. Insomma, pare che questo sia il fronte, anche se ora pende la questione dell'ineleggibilità. È stata calendarizzata dalla commissione che dovrà decidere il 9 luglio la procedura per l'ineleggibilità, perché questo vuol dire che la sentenza d'appello a questo punto è confermata, si attende la Cassazione. Se dovesse la Cassazione confermare, c'è la condanna a 4 anni, ma anche l'interdizione ai pubblici uffici. E allora ecco qui che Claudio Tito su Repubblica racconta quello che sarebbe il retroscena di un baratto vero e proprio che Silvio Berlusconi è pronto a chiedere alla PD. Il piano del cavaliere per fermare i giudici, niente crisi, ma chiede un patto al PD. Il patto sarebbe questo, secondo Repubblica, la garanzia che il Senato voti contro l'interdizione. Nell'articolo che trovate in prima pagina e poi pagina 3 a firma appunto Claudio Tito, il disegno è semplice, scrive Tito. Se venisse confermata l'interdizione ai pubblici uffici, la decadenza della carica parlamentare dovrà essere votata dall'assemblea di appartenenza, cioè dal Senato. Ed è qui il baratto proposto dal cavaliere. Voi votate contro la mia decadenza e io non faccio cadere il governo Letta. Come reagisce il PD a questo baratto che sarebbe già allo studio? Beh, Enrico Letta, fin dal suo insediamento a Palazzo Chigi, ha ripetuto a tutti: il mio governo non può far nulla per quanto riguarda i processi a Berlusconi, sono cose che vanno tenute separate. Un anonimo senatore del PD dice a Repubblica: e come faccio io? Se voto per mandare al macero una sentenza definitiva contro Berlusconi, poi mi devo dare alla macchia. Con che faccia mi presento nel mio collegio? Non potrei nemmeno passeggiare per strada. Non esiste, il baratto che ci propone il cavaliere non può essere accettato. Insomma, insiste invece il vicepresidente del Senato Gasparri, che già ieri aveva detto: se viene condannato ineleggibile ci dimettiamo tutti, intervistato da Francesca Schianchi sulla Stampa, anche se non è molto seguito su questo fronte neanche dai suoi. Dice Gasparri: se si dovesse arrivare alla ineleggibilità di Berlusconi o a condanne definitive con pene accessorie, beh, io ritengo si dovrebbe assumere questa decisione, assolutamente una decisione gandhiana. Gasparri, ecco, cita Gandhi. Questo sulla Stampa a pagina 5. Risponde anche a questa domanda in una lunga intervista di una pagina, riaffiora Franco Battiato. Ricordate quella vicenda che lo portò a dire queste pi che si trovano in Parlamento farebbero qualsiasi cosa, dovrebbero aprire un casino. e fu cacciato da assessore alla regione Sicilia. Beh, risponde in questa intervista che fa per la prima volta dopo mesi: dissi puttane, mi cacciarono, ma il tempo è galantuomo. Parla un po' di varie cose, anche di quello che abbiamo detto in apertura, no? Le vicende, l'esquillo in Sicilia, le escort a Firenze. A un certo punto, alla domanda se Berlusconi viene interdetto, il PDL lascerà il Parlamento, risponde così Battiato: ho sentito oggi distrattamente uno scemo che lo sosteneva. Robe da matti, farse terribili. Forza, andate via! Magari lo facessero davvero. Così Battiato, che poi... sulla vicenda che l'ha coinvolto dice: guardi, io l'assessore non volevo neanche farlo prima, io dissi vengo a patto che non debba dialogare coi politici e possa confrontarmi con le intelligenze. Crocetta insistette, è finita come è finita. Ora vedo che Crocetta va in giro a dire che i nostri rapporti sono ottimi, in realtà non ci parliamo da mesi. Gli dice che ci sentiamo spessissimo, ma non è vero. Comunque ribadisce Battiato: le ragazze non hanno colpe. Sentite cosa dice: i frustrati che se le vendono al mercato invece sì, domina l'ipocrisia. Mi hanno accusato di misoginia, ma l'hanno fatto in evidente malafede. Io non ce l'ho con le prostitute, non riconosco proprio il genere come categoria, per me maschile, femminile, animale sono nello stesso insieme. Ma il fatto grave e inaccettabile, quindi lo ribadisce ora Battiato, il fatto grave e inaccettabile è che le escort vanno in Parlamento, diventano politici e usano i soldi con cui paghiamo le tasse. Ecco questo Franco Battiato, che dunque dice: il tempo è galantuomo, mi hanno cacciato per questo, ma ho ragione io. E l'altra vicenda politica del giorno, meramente politica, domina sempre la questione Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle. Allora è stata espulsa, così ha sentenziato la rete o parte della rete del Movimento 5 Stelle, perché qui ci sono anche le polemiche, hanno votato in meno di 20.000. Il 65% ha detto il senatrice Gambaro deve farsi da parte. C'è stato però un alto astensionismo, anche qui l'astensionismo, gli aventi diritto erano 48.292, hanno votato in 19.790, tanto che la senatrice Serenella Fucsia del Movimento 5 Stelle fa due interviste, una a Repubblica e una al Quotidiano Nazionale, e dice: ma non è un giudizio rappresentativo, a quell'ora votano solo i fanatici del web, quelli, gli smanettoni, no? Quelli che sono tutto il giorno attaccati al sito. Mentre la senatrice Gambaro pubblicamente sta in silenzio totale, si è data anche lei un po' alla macchia, nessuna dichiarazione pubblica, ma secondo Tommaso Ciriaco su Repubblica avrebbe reagito così, pagina 7, questo è una specie di nazismo informatico. Sono stata cacciata, questa è una gabbia di matti, invito tutti a non sottovalutare questa gente. Queste però sono dichiarazioni attribuite a lei, dichiarazioni pubbliche non ne ha fatto, non ne ha fatte. E adesso tocca ad altri. No, qui c'è la sorpresa. Pare che Beppe Grillo e Casaleggio abbiano chiamato personalmente gli altri cosiddetti dissidenti per frenare un po' tutto. Dopo la senatrice Gambaro, il freno. Vabbè, insomma, pare che Beppe Grillo, dopo aver sentenziato, insomma, la Gambaro via, ora invece freni. Ora Grillo e Casaleggio chiamano i dissidenti. Dobbiamo restare uniti. Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera, pagina 9. La strategia è quella ora della falange. Il mantra è il ritorno alla compattezza. Ieri un giro di telefonate. Prima è stato sentito Lorenzo Battista. Ieri invece il capo politico Beppe Grillo ha telefonato a Tommaso Currò e Paola Pinna, anche lei data per nuova possibile espulsa, colloqui lunghi anche con coloro che hanno definito talebani alcuni del Movimento 5 Stelle. Pare che sarebbe stata ritirata la richiesta di espulsione della Pinna. Insomma, anche per il manifesto Grillo chiama i dissidenti. Ora, racconta Carlo Lania, cambia un po' il tono, il tenore. Questione di governo, un'intervista al ministro della salute Lorenzin, che trovate sul Sole 24 Ore, pagina 7. Roberto Turno parla di risparmiare, i costi standard, no ai tagli lineari, il nuovo patto con le regioni da cui si parte già a fine luglio, saranno rivisti i LEA, le imprese della salute che vanno incentivate a restare in Italia perché non sono un valore e sono da non perdere, l'addio ai mini ospedali. Insomma, questi temi vengono trattati infatti un'intervista al ministro Lorenzin, ministro della salute, dal Sole 24 Ore. L'intervista la trovate a pagina 7. Mentre un altro ministro, Josefa Idem, per il secondo giorno è sulla graticola, perché idem e Lici sulla casa palestra, se ho sbagliato pago, ieri Libero e soprattutto oggi riapre Libero con questo invito: caro ministro, si dimetta. La vicenda è quella di una palestra utilizzata come prima casa da Josefa Idem, che per 2 o 3 anni non era la stessa prima casa del marito, e quindi vivevano in 2 prime case seppur nello stesso paese, quindi questo ha comportato ovviamente l'esenzione dell'IMU come prima casa. Idem e Lici sulla casa palestra, se ho sbagliato pago, il caso andrà, racconta il Corriere della Sera, anche in Consiglio dei Ministri, mi assumerò le mie responsabilità, sono pronta a farmene carico. Il giornale: IMU non pagata, il carroccio sfiducia la Idem, è una battaglia quindi della Lega. Un'abusiva al governo, titola Libero con Maurizio Belpietro che fa questo appello: cara ministra, si dimetta. Illeciti in casa, il ministro ammette ma non lascia, pagina 8 del Fatto Quotidiano, un'intera pagina. Martina Castigliani racconta, dopo la denuncia dei giornali e anche del Fatto, Josefa Idem dice: sono pronta ad assumermi le responsabilità. La Lega annuncia una mozione di sfiducia. In tutto questo, invece, oggi il ministro D'Alia sarà ospite alle 9 di Simone Spezia per parlare anche di questa lotta alla burocrazia. Ci sono stati dei provvedimenti, quella che è stata definita una manovra economica a costo zero, tutti i dettagli li spiegherà il ministro, ma li trovate anche già sul Sole 24 Ore, a pagina 5, Davide Colombo, il tutor per le imprese, l'eredità libera fino a 75.000 euro, e proposte per università, automobili, ambiente, sanità, successioni, donazioni, lavoro, edilizia, insomma una manovra economica cosiddetta appunto a costo zero definita, che prevede tante novità per snellire la burocrazia. Questo è il disegno di legge del governo. Che dire, trovate molto di cronaca anche. Vi segnalo come cronaca un bel reportage di a firma Giovanni Bianconi, che ha raccolto la testimonianza che proviene da Nuoro di 3 parlamentari, Luigi Manconi, Peppe De Cristofaro e Michele Piras. Sono andati nel carcere di Bado e Carros per ispezionare dove sta Antonio Iovine, che il 17 novembre del 2010 fu arrestato, casalese, camorrista, nella cella 3 metri per 4 dove il boss è al carcere duro. Iovine, capo dei casalesi, dice: rispetto le regole ma vorrei dignità. Vive in una stanzina, in una cella del carcere, 22 ore al giorno dentro un bagno. Non credo sia una condizione dignitosa, dice Oninno ai parlamentari che lo vanno a ricevere. Ho fatto domanda di trasferimento per poter vivere in una condizione più umana e dignitosa, mi hanno risposto di no. Evidentemente per l'amministrazione va bene così. Leggo molti libri, e racconta insomma i detenuti nel carcere duro. Leggo e guardo la TV. Ho chiesto di essere trasferito, ho 3 figli che hanno preso le distanze da me studiando, ho una visita al mese dei miei familiari. Insomma, racconto anche del carcere duro, dove è stata aperta una vecchia sezione per lui, 22 ore dietro le sbarre, una visita dei parenti ogni mese. Così racconto sul Corriere della Sera. Va bene, siamo al momento del premio, il premio. La carta costa, l'articolo più inutile trovato sui giornali, con molta simpatia ovviamente. Oggi l'ho trovato sul Secolo XIX, in Australia, la rivolta della scollatura. Ci sono le polemiche perché il primo ministro Julia Gillard è stata criticata per mostrare troppo il décolleté. E allora le donne insorgono e mettono le loro foto osè online. Tra i detrattori del premier anche una giornalista: quel seno in vista in Parlamento è inappropriato. Ma insomma, amici, colleghi del Secolo XIX, che è uno straordinario giornale che leggo sempre ogni volta e spesso ne cito e ne trovo tante cose. La carta costa! La carta costa! La rivolta della scollatura contro il premier australiano e il suo décolleté. Va bene, oggi con simpatia avete vinto voi. Il giornale radio.